Senta, la manifestazione delle donne, che giudizio dà quella sulla dignità delle donne? Ma l'ho trovata una manifestazione strumentale, inutile, perché mi viene da ridere, vuol dire non leggere la storia. Le donne hanno sempre usato il loro corpo per fare carriera in tutti i settori, in tutto il mondo, per cui è come dire, è come negare una cosa che non solo giovani, meno giovani, vecchie, i grandi salotti fino agli ultimi della Roma sono stati fatti da grandi, no, cortigiane, persone che hanno usato. A me lo dice, sono settimane che vado sostenendo che l'esistenza di queste cose è il, come dire, è la prova vivente del fatto che la società occidentale vive e vegeta e lotta insieme a noi, si figuri. Esatto, sì, l'ho trovato così inutile. Però tutto. Dirigenti del suo partito sono andati alla manifestazione, la Buongiorno, la Perina, eccetera. Io ancora ripeto il complesso della Repubblica, l'insularità. Il complesso della Repubblica come giornale, lei dice. Sì, perché per avere un giudizio positivo di Repubblica uno direbbe qualsiasi cosa.